Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Diamo il via al soundcheck di Radio 24, prova del suono dal Groovemaster Studio con Gegè Telesforo. Buonasera a tutti voi e la nostra Silvia Barba. Buonasera a tutti, ciao. Io ti vedo pronta, pimpante, anche psicologicamente preparata per affrontare una settimana davanti alla televisione, perché sono sicuro che guarderai da martedì il Festival di Sanremo. E fai bene a pensarlo, perché ecco, mi piace guardarlo, metto i voti anche a come si vestono, alle canzoni, all'intonazione, ai testi. Come ti organizzi? Amici, con c'ho la una votazione scheda. Ah, fai proprio la scheda, non sabato, con le palette. No, le palette no, ma il sabato ci riuniamo tutti insieme con un po' di amici. Quindi dopo aver ascoltato tutti i cantanti, esatto, e le canzoni, bisogna in avere programma, un ascolto, diciamo, anche un po' coerente per arrivare preparati. Esatto. E poi diamo i voti, alla fine vediamo se coincidono con quelli del pubblico da casa e con la giuria del festival. Io invece lo guarderò, perché naturalmente è uno spettacolo importante, una grandissima produzione della Rai, da sempre un colosso, possiamo un colossal televisivo potremmo definirlo, lo è. Il Festival di Sanremo lo guarderò, però lo affronterò con lo spirito di uno che va al cinema senza conoscere la trama, perché ti dico la verità, so soltanto di qualche cantante presente a questa edizione del festival, ma non conosco tutto il cast, quindi sarà una bella sorpresa anche, ecco, per me. Ti piace sorprenderti, perché vedrai man mano le serate che si susseguono cosa succederà. E anche quest'anno mi sorprenderà, perché ogni anno succede qualcosa di interessante. Speriamo. Speriamo. Allora, prendendo spunto dal Festival di Sanremo in agguato ormai, vorrei introdurre agli appassionati di musica di Radio 24 il suono, l'arte e il talento di un musicista che sicuramente non parteciperà mai al Festival di Sanremo, ecco. Questo lo dici tu, perché potresti diventare direttore artistico tra qualche tempo e tu lo inviterai. Per questo non parteciperà mai al Festival di Sanremo, perché è improbabile anche la seconda opzione. Ora, l'artista in questione si chiama Stephen Brunner, perlomeno questo è il nome presente sull'ID californiano, visto che è nato lì nel 1984, ma è famoso ai più nell'ambiente musicale con il soprannome di Thundercat, un nome da supereroe. Beh, si ispira a dei supereroi, i famosi Thundercats. Hai visto? Sì, sì, che sono degli alieni umanoidi dall'aspetto felino provenienti dal pianeta Thundera. Ah, sì, Thundercat ha un compagno di scorribande musicali ormai da tempo, con il quale ha messo su anche una certa organizzazione come etichetta discografica. Beh, un'etichetta produzione molto famosa, la Brand Feeder. Un altro supereroe che si chiama Flying Lotus. Fly Low. È vero, Flying Lotus e Thundercat se la fanno insieme. Sì, sì, producono tante cose. Thundercat ultimamente ha prodotto, come sempre, da solo nel suo studio, con la collaborazione di pochissimi musicisti, questo album intitolato The Beyond Where the Giants Roam, molto interessante ancora una volta l'esperimento sonoro di Thundercat, perché potrei non definirlo R&B, anzi è difficile da catalogare la sua musica. Beh, si ispira da un punto di vista bassistico a Stanley Clarke, è uno dei suoi riferimenti. Parte da quello, perché lui ha iniziato proprio facendo le cover di brani fusion di George Duke e Stanley Clarke. Esatto. Però la sua musica è andata oltre, è andata oltre. Sì, interessanti anche i videoclip del signor Thundercat, dove sono sempre presenti i felini, i gatti proprio, sì. Evidentemente un animale che ha segnato la sua vita anche da musicista. Allora, ascoltiamo The Beyond Where the Giants Roam, nuovo album, il brano si intitola Dame Changes. Questo è il soundcheck di Radio 24. E ha collaborato con Kamasi Washington, ha partecipato anche all'ultimo album meraviglioso di Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Questo era Thundercat con Dame Changes, presenti al soundcheck di Radio 24. Questo artista che non parteciperà mai al Festival di Sanremo, dicevamo. Non parteciperà mai, ma tu sei mai stato al Festival di Sanremo? Io sì, ci sono stato al Festival di Sanremo. Quando? In diverse occasioni, non ci sono mai stato come cantante, come interprete in gara. e vedo difficile la mia partecipazione per tanti motivi, però ci sono stato in diverse occasioni. Ci sono stato come MC, ovvero presentatore e autore di alcuni programmi tipo Sanremo International, negli anni 90 si facevano anche queste cose, Sanremo International, uno, due, tre appuntamenti che venivano messi in onda dalla RAI prima del Festival di Sanremo per presentare i successi internazionali, poi alcune edizioni di Sanremo Jazz e Blues, perché una volta la RAI aveva un accordo con il comune di Sanremo per realizzare e mettere in onda anche Festival Jazz e Blues che venivano prodotti lì a Sanremo. E quindi con George Benson, Chick Corea, Pat Metheny, insomma grandi, un respiro internazionale. Grandi artisti. E poi ho partecipato in gara al Festival di Sanremo, ma solo per accompagnare il mio amico Renzo Arbore, vestito con un abito che lui ci fece fare su misura da testa, di color senape. E quindi infatti all'inizio era Renzo, quando ci fu il clarinetto in televisione, la ricordiamo tutti quella performance. La ricordi? Sì, sì, io moltissimo. Allora sì, lui pensava di chiamare il quartetto senape, e io glielo dissi: Renzo, il nome è orrendo. Beh, ho detto sì. Ma l'abito è color senape, chi se ne frega, trova un nome più carino. E quindi ci battezzò come i tre amici e il cognato. Quindi il nome più carino era sì, questo. Sì, al Festival di Sanremo con il clarinetto Renzo Arbore e i tre amici e il cognato. Effettivamente eravamo tre amici e il cognato Adriano Fabi, che è anche il manager di Renzo. Performance memorabile. Lo voglio ricordare, arrivammo secondi. Primo arrivò Eros Ramazzotti. Voglio dire, grandissima performance. Sì, no, poi aspetta, dimenticavo, ho partecipato anche e ho presentato un'edizione di Sanremo Famosi. In un'edizione storica, ecco, questo lo posso dire, per la prima volta in televisione presentai al pubblico di appassionati di musica Andrea Bocelli. Wow. E vinse quell'edizione Laura Pausini, quindi ho battezzato sia la Pausini che Bocelli, che l'anno dopo partecipò al Festival di Se Big. Posso ricordare, fra i miei meriti c'è anche beh, io anche lo metterei nel curriculum. Sì, tu dici, sì, allora sì. Lo devo aggiornare. Sì. Allora, torniamo a Thundercat, dai, ascoltiamo un altro frammento tratto da The Beyond Where the Giants Roam, il brano è Lone Wolf and Cube, con il featuring di Herbie Hancock e Flying Lotus. Soundcheck, il suono della musica. Per la prima volta al soundcheck di Radio 24 è Change We Need, il sound di questo DJ pianista chiamato Freddy Joachim, origini filippine per questo ragazzo, naturalizzato poi negli Stati Uniti, dove si è fatto conoscere nell'ambiente hip hop producendo musica per artisti del genere e poi anche realizzando come si chiama? Musica per commercials, giusto? Beh, la musica per la pubblicità. Jingle. Esatto. Musica per pubblicità, anche quello è un bel lavoro per Freddy Joachim, che sicuramente non parteciperà mai anche lui al Festival di Sanremo. Perché? Intanto, vabbè, io l'ho passato, non è proprio il mio genere, perché come sound mi riporta un po' al periodo quello del un po' lounge music, il Buddha Bar, Caffè del Mar, tutte quelle cose del mare. Da aperitivo, cocktail. Da aperitivo, però ecco, è quella musica che arreda ma non impegna e quindi non propone quella quell'afrore tipico del soundcheck. Che piace a te. Quello che piace a me, quello che mi muove, che mi emoziona, ecco, sta un po' lì, però brano molto elegante, di atmosfera, siccome è un artista carino, Freddy Joachim, ho pensato di proporlo al soundcheck. Si fa ascoltare. Sì, ci piacciono altre cose, che, anche questo artista che noi abbiamo già presentato al soundcheck diverse volte e che ho saputo, qualcuno mi ha detto. Qualcuno. Sì, qualcuno mi ha detto, Silvia, perché tu fai un po' di gossip pure, lo voglio dire. C'è questa cosa femminile nel DNA, no? Sì. Mi ha detto: ma lo sai che Jordan Reich è stato in vacanza in Italia? Vedo le sue foto pubblicate su Instagram, non scrive a me direttamente. Scusami, perché tu segui su Instagram Jordan Reich. E non solo. Non solo su Instagram. Cioè, lo seguo, mi piace. Bel ragazzetto. Ecco, qua ti volevo. Quindi tu lo segui non solo perché musicalmente ti ispira. Ha una voce bellissima. Ma anche perché è un chitarrista perché molto bravo. Fisicamente un po' ti attizza, diciamo. Beh, dice, più sì, anche se biondino con quest'occhio così verde, chiaro, però mi piace. Beh, che significa? No, di solito io guardo quelli un po' più... Un po' più pelosi. No, muscolosi, belli, neri, grossi. Ah, sì, eh? Sì, black. Ah, sì, eh? Yes. Hai capito che gusti. Allora, mia cara Silvia, lasciamo perdere, va bene? Non vogliamo sì, approfondire. Meglio, è meglio. È questa la location né il programma adatto. Direi allora di far partire invece il nuovo singolo di Jordan Rackey, lo abbiamo presentato, australiano, bravissimo pianista, questo è un bravo pianista, bravo compositore, molto richiesto lì a Londra, visto che si è trasferito lì da vari organici contemporanei. Il brano si intitola The Light. Sentite che talento questo ragazzo e che classe. Soundcheck. Il suono della musica. Il ritorno di Blended Babies al soundcheck di Radio 24. Splendida la voce di Anderson .Paak e niente male il rap di Asher Roth, rapper californiano bianco con i capelli lunghi, biondissimi, quindi non è proprio il tuo tipo, mia cara Silvia. No, lui no. Invece il mio tipo da un punto di vista musicale naturalmente è questo signore che si chiama Anderson .Paak, che è vocalist, questo ragazzo che ha origini coreane però vive in California, dove ha vissuto una storia incredibile. Beh, pazzesca, ricordiamo che è cresciuto lavorando in una farm dove... con sua moglie e il suo bambino. Sì, pure. Perché non era in condizioni, diciamo, economiche molto floride, per cui ha dovuto lavorare in una piantagione dove si coltiva la marijuana. Medical marijuana. Soltanto che poi è stato licenziato, evidentemente l'azienda aveva dei problemi, è stato messo in cassa integrazione, no? La verità è che si è ritrovato senza un casa. Lavoro stabile e ha vissuto come senza tetto per un bel periodo, poi fortunatamente la passione, l'entusiasmo, l'energia che gli dava il suo talento e la sua musica lo hanno portato fortunatamente a vivere una condizione migliore e oggi lì a Los Angeles è un artista molto richiesto. Però io mi sono fatto una domanda: come mai lo hanno licenziato? E hai trovato la risposta? No, perché sai, a volte io ci sono stato più volte da quelle parti, frequento, che ne so, Venice Beach, frequento Los Angeles per motivi professionali e so che lì ci stanno, su Venice Beach, no, sul lungomare, ci sono i Green Doctor, che sono, come dire, dei dottori che prescrivono l'assunzione di medical marijuana, così come i dottori prescrivono gli analgesici. L'aspirina. Normali e l'aspirina. Naturalmente devi avere i requisiti, devi avere il local ID, devi essere californiano, anche se poi alcuni insomma rilasciano certificati a destra e manca, e poi vai nella Green Pharmacy e acquisti il tipo di medical marijuana che serve per le tue problematiche fisiche. Cioè, quali sono le problematiche che cura? Ma qualsiasi cosa, se hai la pressione alta c'è un tipo di medical marijuana, se hai palpitazioni o non dormi la notte, se hai il jet lag, se hai anche dolori perché hai subito un intervento, cioè c'è anche gente con malattie importanti e gravi che preferisce assumere medical marijuana che farmaci tradizionali che a volte hanno delle controindicazioni più importanti. E tra l'altro l'assunzione, ecco, quando si parla di medical marijuana pensiamo tutti al cannone, allo spinellone, invece ci sono vari modi. Tra l'altro io ho proprio amici che hanno 70 anni che assumono per motivi fisici medical marijuana lì in California e l'assumono facendosi il tè, perché poi è una marijuana che è perfetta da un punto di vista biologico, è il principio attivo al massimo delle sue potenzialità, di tetra, certo, cannabinolo. E l'assumono, che ne so, mangiando pezzettini di cioccolata fondente alla medical marijuana, biscottini alla medical marijuana, si fanno il tè, si fanno le tisane, e alcuni ex fumatori che non fumano più le sigarette fumano però con il vaporizer, cioè una specie di aerosol, sai, la sigaretta elettronica, quella che fumano che vogliono smettere di fumare, ecco, c'è questo vaporizer, questa sigaretta elettronica, e tu ci metti la tua cartuccia con la medical marijuana e quindi fai due puff e vai super high. Ma ecco perché tutti vogliono trasferirsi in California. Tutti? Sì. Vabbè, non lo so. Però questo è quello che succede e quindi io mi domando, non sarà che il nostro Anderson .Paak di nascosto Non lo so. No, perché questo... chi ci lavora lì nella Green Farm deve essere... Beh, assolutamente molto attento a non diffondere... A non farne uso, a non farne uso. Allora, da Blended Babies con Anderson .Paak passiamo a un altro signore che non arriva dalla California, ma è un rapper, anche lui molto bravo, con un bel senso dell'umorismo, la sua musica è molto allegra, si chiama Chance the Rapper, ovvero nasce come Chancellor Jonathan Bennett a Chicago, Illinois, ma è famoso come Chance the Rapper. Il brano è Angels, molto ben realizzato. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci pronti dopo l'informazione di Radio 24 dal Groove Master Studio per la seconda parte del Soundcheck featuring Silvia Barba in person. Allora, siamo pronti per la seconda parte e vorrei riproporre perché questo pezzo mi ha fatto impazzire. Ma tutto l'album, devo dire che sei, ti trovo ogni tanto nel Groove Master Studio che ascolti questo album. Sì, perché mi sento più buono quando, quando lo sento. Vi stiamo parlando del gospel del reverendo Kirk Franklin, nuovo album Losing My Religion, l'abbiamo già presentato facendovi ascoltare un brano con la partecipazione di Kim Burrell, una star del gospel di oggi, e poi in duetto con Lala Hathaway, che è una delle mie preferite. Questa volta invece, questa è un'occasione più unica che rara, ascoltare invece come cantante Kirk Franklin, che è un eccellente compositore, direttore d'orchestra, ammaliatore di anime perse, lo fa con la sua musica, lo fa da sempre, ma è difficile sentirlo cantare, cioè all'interno dei brani si sente la sua voce, ma soltanto perché dai richiami, dai comandi anticipa alcune parti del testo. In questa occasione invece canta una melodia meravigliosa, ecco, quelle melodie immortali, è una melodia immortale, e io credo di aver ascoltato questo brano almeno un centinaio di volte di seguito qualche giorno fa, per capirne bene il senso, per capire anche il gusto dell'arrangiamento e la progressione armonica tipica del gospel che sostiene questa bellissima melodia. Una melodia semplice, ma come tutte le cose semplici funziona. È una melodia sanremese? Potrebbe essere anche una melodia sanremese. Ecco, una canzone italiana con questa melodia potrebbe anche vincere al Festival di Sanremo. Fatto sta che per scrivere una melodia così devi aver vissuto quello che ha vissuto Kirk Franklin, cioè devi essere stato comunque abbandonato da tua madre a 3 anni, svezzato da tua zia Gertrude, e ti devono aver ammazzato un amico d'infanzia a fianco. Una storia molto forte, e poi che soprattutto trasporti devi aver, nella tua musica. Sì, e poi devi aver frequentato la chiesa battista sempre, tutte le domeniche. E aver vinto anche tutti quei Grammy Award che ha vinto. Abbiamo in Italia un artista così? No. Ecco, e allora non potremo mai avere un Kirk Franklin. E invece lo presentiamo al Soundcheck di Radio 24. Il brano si intitola Intercession, Kirk Franklin con Losing My Religion, al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. E qui stiamo parlando, mia cara Silvia, di discografia non ufficiale, cioè artisti che non appartengono a multinazionali ma neanche a etichette indipendenti di quelle di primo piano, artisti che espongono la loro mercanzia in siti di riferimento come Bandcamp o SoundCloud, e questi signori poi hanno questo nome così particolare, quasi indimenticabile, e mi hanno affascinato subito già con il loro nome. Si chiamano Potato Head People, gente con la testa a forma di patata. Il brano era Love You, con la partecipazione di un'altra vocalist che voglio tenere d'occhio, vorrei proprio convocarla, la signorina Amalia, e vedere anche fisicamente com'è fatta, perché non ho idea delle sembianze. Beh, anche il duo dei Potato Head People, che sono molto attivi sui social media, sono canadesi e per esempio pubblicano ogni tanto anche su Instagram delle versioni di brani che ancora non sono state pubblicate, per esempio una versione per il famoso gruppo Hiatus Kaiota a cui loro hanno collaborato, non è ancora uscito. Mettono in rete questi lanci, queste pillole, proprio per incuriosire anche tutti i loro follower. Quindi spiegami un attimo la tua tecnica, no, come procedi? Io ti faccio sentire musica nuova e tu vai a verificare fisicamente come sono fatti su Instagram. Quello conta, perché io ho una memoria anche quindi visiva e fotografica. Quindi per te, se l'artista poi non è presente su Instagram? No, non è che che proprio non lo considero, non vale niente, però no. Deve essere attivo sui nuovi mezzi di comunicazione, non solo su SoundCloud o su Bandcamp dove pubblicare la propria musica, ma anche su Twitter. Ecco, su... E noi quanto siamo attivi sui social media? Noi siamo attivi, guarda, ti stupirò, perché i nostri followers, che ancora non sono tanti, tra l'altro ricordo, Soundcheck... R24 per Twitter, seguiteci, per Twitter. Dove noi pubblichiamo tutto l'airplay e i nostri artisti che noi programmiamo ci ringraziano. Eh no, fai bene a dirlo, perché quindi sul nostro indirizzo Twitter si trovano le scalette proprio il sabato e la domenica, e quindi questo lo dico perché mi arrivano email di protesta di amici che mi scrivono per sapere che brano è quello, dove trovo la scaletta, poi io mi scordo di andare a verificare la mail di Soundcheck radio24.it, e quindi trovo poi la mail successiva con offese anche terribili, ma non si fa così, lei ci deve rispondere, perché noi siamo, mi dispiace ragazzi, ma che noi posso siamo fare? Su Twitter, seguiteci. Però lì le scalette sono esposte su Twitter ed è un compito che spetta di diritto esclusivamente a Silvia Barba me la prendo che io presto questa bega. Si assumerà anche la responsabilità di postare l'immagine dell'artista, visto che è una cosa che ti piace, no? Potresti anche mettere la fotografia. Sui nostri ospiti lo faccio, lo farò anche sugli artisti che programmiamo. E quindi ringraziamo Potato Head People, qui presenti con Amalia, anche per aver retweetato, no? Perché... Sì, sì, loro sono molto attivi. Ecco, la cosa bella degli artisti è che gradiscono molto, perché noi quando poi spediamo il tweet mandiamo il link diretto anche all'artista e sono tutti felici, artisti grandi e piccoli. Esatto. Esatto, lo siamo anche noi adesso, pronti per presentarvi un altro campione di musica della nuova generazione che si chiama Diggs Duke. Oh, questo è un polistrumentista, viene dal jazz, ma anche lui si muove in contesti diversi e qui incontra una band chiamata Columbia Knights. Sappiamo qualcosa dei Columbia Knights? Sì, sono un trio formato da John Daisy, che suona il basso e la chitarra, Eileen Price, che suona i synth e missa il tutto, e Jason Edwards, che suona le percussioni e le tastiere, percussioni molto presenti nei loro brani. Molto infatti. Presenti, soprattutto in questo brano intitolato Now. Ma chi sono i Columbia Knights? Da dove arrivano? Con chi se la fanno? Come sono fatti fisicamente? No, sono come... carini? No, sono belli? Sono biondi? Sono neri? Sono neri. Queste cose mi aspetterei da te, non me le dici? Columbia Knights con Diggs Duke al Soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Ora mi devi spiegare il nesso tra nesso? Thundercat, Columbia Knights, Jordan Rakey, Django Reinhardt. Il nesso è che la musica è bella perché è varia. Questo è il mio motto da sempre. È una meraviglia. Secondo me ogni tanto Django Reinhardt con Stéphane Grappelli fanno la loro sporca figura in un mondo fatto di suoni stereotipati. Certo non è il caso del nostro programma, però secondo me ascoltare Django Reinhardt come ascoltare Duke Ellington, Count Basie o Ella Fitzgerald fa bene alla salute proprio. No, figurati, io sono d'accordo. Tra l'altro ci avviciniamo al Festival di Sanremo e quindi ascoltare Django Reinhardt in qualche modo ti pulisce le orecchie. Prima della terapia. Okay. Allora Django Reinhardt presente al Soundcheck di Radio 24, anche perché mia cara Silvia, forse tu che frequenti ambienti più contemporary R&B, jazz contemporaneo, forse ti starà sfuggendo che in Italia c'è un grandissimo ritorno allo swing. Qui certamente parliamo dello swing, quello originale, francese, gitano, dello swing manouche, ma lo swing come genere musicale, come genere di danza sta tornando in auge nel nostro paese prepotentemente. Sale dove si balla proprio anche. Sì, ci sono, swing, anche a Roma. Guarda, io ho un amico che è maniaco compulsivo di questo genere musicale, che è sempre lui, quello del Quartetto Senape, il fondatore del Quartetto Senape, il mio amico Renzo Arbore, sa tutto di queste cose, gli artisti della nuova generazione italiana che fanno swing, i locali dove si balla, gli orari, i giorni e anche le compagnie di danza che organizzano serate a tema swing. Io invece ho degli amici che vanno a ballare lo swing. E sì. Tu? Io ancora no, mi devo avvicinare a questo genere. Io non lo ballo lo swing perché c'è bisogno di avere l'abbigliamento adatto e a me piace ballare solo col tutù. Vabbè, però puoi sempre chiedere a Renzo, qualcosa ti presto. No, per carità, guarda, tutte le volte che lui mi ha proposto il suo abbigliamento, magari perché non avevo, capito, la camicia adatta, mi ha sempre presentato cose improponibili. Anche in televisione più volte, per colpa sua, mi sono vestito molto, molto, molto male. Però a lui piace così. Allora, parlavamo di Django Reinhardt, e questo era un classico del suo repertorio, forse uno dei brani più famosi, intitolato Minor Swing. E in Francia, lì dove è cresciuto Django Reinhardt, dove ha fatto la sua storia prima di approdare anche alle registrazioni fatte negli Stati Uniti, continua la tradizione dello swing manouche, o comunque dello swing, prendendo come punto di riferimento Django Reinhardt. E ci sono dei musicisti francesi che vanno in giro sotto il nome di Minor Swing, in questo esatto. caso, che hanno recuperato quel tipo di linguaggio ma lo hanno portato ai giorni nostri. Minor Swing li presentiamo qui al Soundcheck per la prima volta con una loro composizione intitolata Python. Tu li conosci? Io ci ho parlato su Facebook. Ma guarda che sei tremenda! Sì, volevo delle informazioni, loro mi hanno gentilmente risposto e io adesso sono in contatto con loro. Ma ci hai parlato al telefono? Anche al telefono. Come si chiama questo signore? Scusa. Guarda, quando le ragazze ridono così, no, c'è lui sempre pensava, qualcosa no, sotto. Ti racconto in breve. Lui pensava che io fosse, che fosse spam la mia mail. Quindi mi ha risposto un po' piccato e molto velocemente su delle informazioni. Poi si è reso conto che io ero effettivamente interessata, anche perché scrivevo in francese. Mi ha forse visto su Facebook, perché parlavamo su Facebook, e mi ha detto, désolé, je pensais, così un po' con la gentilezza ha un francese. Professionale su Facebook io lo capisco. Ma però così si conoscono i musicisti, Gegè. Tu rimorchi i musicisti francesi che fanno swing manouche via Facebook. Comunque posso dirti una cosa? Sì. Mi piaci, Silvia, ecco. Brava, fai bene perché ti devi divertire. Minor Swing con Python al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Madame et messieurs, per la prima volta al Soundcheck di Radio 24, sembra un po' la Pantera Rosa. Sì, ma mi piace questo accento. Dunque, Demi Cat, questo è il nome di questa artista, bellissima ragazza, che propone Electro Swing, grandissimo successo per lei in Francia con questa pubblicazione di un paio di anni fa intitolata Zigzag. Personalmente mi piacerebbe conoscere Demi Cat per parlare di musica, parlare di arte e capire se vuole fare con me una partitina a ping pong al ritmo di Zigzag. Beh, io ti posso aiutare in questo. Sì? Se vuoi posso scriverle da parte tua. Iniziamo un approccio in francese. No, devi fare intanto, devi contattarla per motivi professionali, perché certo, siamo interessati per la alla sua, sua musica e via dicendo. Poi le mandi una mia fotografia del 1980 quando fatta in Sardegna in costume, quando avevo ancora gli addominali. Quando esistevano ancora gli addominali. Perché io ho capito che alle ragazze piacciono molto i ragazzi con gli addominali. Perché? Non a tutte, Gegè. Non a tutte. Non a tutte, perché non è l'addominale che fa la persona. No, ma è il l'addominale che fa la persona. Sì. Lasciamo stare. Lasciamo per favore. Stare, hai ragione. Di Micat al Soundcheck con Ping Pong. No, sul serio, ragazza molto bella. Molto che, glam, molto davvero. Di Lione anche lei. Di Lione anche sì. lei, ma infatti si conoscono sicuramente con i Minor Swing. Potremmo fare una bella comitiva e uscire tutti insieme. E possiamo andare ad ascoltare Swing Manouche a Lione. Io sono d'accordo. Allora, visto che siamo in chiusura e mi hai provocato, direi di tornare ai Minor Swing, perché oltre a Python, che è un brano originale molto bello, c'è anche una composizione intitolata Joseph Joseph, realizzata molto bene dai Minor Swing. Sì, l'hanno riarrangiata, ma la versione originale è stata scritta da un'attrice e cantante Yiddish che si chiama Nelly Kazman, si chiamava, perché è nata nel 1896 e morta nel 1984, russa, trasferitasi a New York, che e ha avuto il suo successo lì con questo genere molto particolare. Loro l'hanno riarrangiata. Allora, grazie a tutti voi. Noi ci risentiamo comunque domani a partire dalle 19:15 con il soundcheck più jazz. Vuoi venire? Voglio tornare, sì. Dai, torna su. Grazie. Ci risentiamo domani. Grazie a Silvia Barba. Grazie a Giorgia Telesforo. Buona serata e buona musica e buon Minor Sync con Joseph Joseph qui al soundcheck di Radio 24 da Giorgia Telesforo.